Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti, eccoci, siamo pronti, sono le 11.07, in regia abbiamo Giorgio Matè, in redazione Laura Vanossi, andiamo subito a sentire i temi del giorno. Il cuore tra elettricità e meccanica. Argilla, un vero toccasana. Shatsu, premi i punti giusti. Oggi pensiamo al cuore come ad una macchina composta di una parte elettrica e di una meccanica. Sono entrambe importanti, questo è ovvio, ma oggi cercheremo di capire perché e soprattutto cercheremo di individuare eventuali segnali di malfunzionamento. Insieme a noi, a guidarci, abbiamo il professor Fabio Magrini, direttore della medicina cardiovascolare dell'Università di Milano, ospedale policlinico. Professore, bentornato. Grazie, buongiorno. Allora, professore, oggi facciamo una specie di revisione, di tagliando della macchina a cuore. Prima, se lei è d'accordo, inizieremo a capire la funzione di ciascuna parte, di quella elettrica e di quella meccanica, e poi credo sarà più facile per noi capire se qualcosa non va, un po' come succede con la nostra automobile quando fa un rumorino strano, qualcosa di simile. Sì, no, è proprio così, è molto simile a un motore dove ci sono le candele che danno delle scintille. Sì. E le scintille fanno girare il motore. Allora, la scintilla è la scarica di corrente che dà la nostra centralina, che è un piccolo nodino nella parte superiore del cuore, e il motore è la pompata che il muscolo dà quando riceve questa scintilla. Quindi è molto simile il cuore in realtà ad un motore dove le candele danno corrente e il muscolo spinge il sangue e fa funzionare tutto quanto. Va da sé che è un pochino più complicato di un motore, perché c'è l'acceleratore, c'è il freno, si può modificare un pochettino la velocità con cui la corrente passa, insomma ci sono un sacco di informazioni che forse è utile così sapere, che tutti sappiano. Eccoci. Quindi, professore, se noi volessimo iniziare la revisione della nostra macchina a cuore cominciando dalla parte elettrica. Allora, la parte elettrica è la prima che comincia a funzionare. Quando i bambini o bambine si formano nella pancia della mamma, il primo segnale che esiste il cuore è proprio quello elettrico. Quindi alle origini c'è l'elettricità, poi l'elettricità comincia a far pompare il piccolo cuore e così comincia la storia della centralina parte elettrica e del cuore parte meccanica, che dura poi per tutta la vita. Alla nascita la centralina è molto veloce, i bambini quando nascono fanno battere il cuore 150-160 volte al minuto. Crescendo, diciamo a 18 anni, uno ha smesso di crescere, le ossa si sono saldate, insomma è diventato adulto, la centralina batte tra 60 e 80 battiti quando noi siamo fermi a riposo. Poi dopo, naturalmente, se c'è bisogno di accelerare, la nostra centralina può arrivare anche a 200 battiti, poi magari vedremo qual è il numero di battiti che è bene raggiungere, come magari l'allenamento li tenga un pochino più bassi. Quello che forse è utile, ma lei mi dica se quando io divento noioso mi interrompa. Va bene, no, facciamo quello questo. Quello che forse è utile è segnalare le 5 domande che sì, uno si deve fare quando sente il battito diverso. Infatti, che cosa vuole sapere lei, così noi le rispondiamo, del nostro cuore ballerino? Perché noi lo descriviamo in mille modi quando il cuore ci sembra che perda il battito. A volte abbiamo un fruscio, sentiamo, no, degli uccellini nel petto. Abbiamo delle descrizioni di fantasia che poi voi medici a volte siete bravi a interpretare, a volte... Sì, però è di grande aiuto per noi medici se i cittadini imparano a sentire i battiti diversi, senza che diventi ovviamente un'ossessione, cosa, no, per l'amor di Dio. Perché il cuore batte da solo, senza che noi ci pensiamo, meno male. Noi ce ne accorgiamo che il battito del cuore esiste quando o facciamo una corsa e sentiamo tun tun, oppure in certe condizioni, cioè facciamo una grande mangiata, una grande bevuta, fumiamo troppe sigarette, prendiamo troppi caffè, o magari abbiamo un'emozione buona o cattiva, non so, incontriamo l'amorosa o il moroso e sentiamo che il cuore batte. Questo è un segnale biologico ottimo, perché vuol dire che probabilmente c'è l'amore. Se c'è evidenza che il cuore batte in fretta ma regolare, è un ottimo segno di intesa, insomma. Certo. Perché le emozioni, insomma, il cuore noi lo facciamo sede delle nostre emozioni. Poi, direi che cuore e cervello sì. sono molto sincronizzati. Allora, la cosa importante è che nessuno si spaventi se il cuore batte in fretta quando fa uno sforzo oppure quando incontra l'amorosa o il moroso, sì. perché queste sono risposte del tutto naturali e normali. Bisogna un pochino capire se il cuore batte in fretta e regolare sì. o in fretta e irregolare. Allora, il battito regolare è tum tum tum tum. Irregolare è quando la distanza tra un battito e l'altro varia, allora lì succede quello che lei diceva, sento uno sfarfallio, sento la mitragliatrice, sento il cuore che fa capriole, eccetera. Sono tutte descrizioni estremamente efficaci che a noi medici danno molte informazioni, quindi se il paziente impara a raccontare bene che cosa sente di anormale, perché oltre al cuore che batte in fretta e irregolare, ci può essere anche il cuore che batte troppo lentamente e regolare, cioè perde dei colpi. Quindi se batte, noi dobbiamo saperle dire, se batte troppo veloce o se batte un po' troppo lento, giusto? La prima domanda è che cosa sente. Allora ci sono due grosse categorie, sento più in fretta, più veloce e irregolare o regolare, oppure lo sento più lento, regolare o irregolare. I medici hanno chiamato queste due cose aritmie ipercinetiche, cioè ad alta velocità, e ipocinetiche, cioè a bassa velocità. È come accelerare con un'automobile, boom, il motore va su di giri. Sì. Accelerare e il motore perde dei colpi, pop pop pop, si intoppa e diventa irregolare. Questa è la prima indicazione che dobbiamo darle. La seconda. Che cosa si sente? La seconda domanda è: quando sente tutto questo? Allora, questo è il giallo più grosso da risolvere per il medico, perché bisogna riuscire a stabilire un rapporto prima di tutto di tempo e poi eventualmente di causa-effetto con alcune cose. Per esempio, io sento che il cuore batte in fretta in modo regolare quando faccio uno sforzo, quando sì. incontro l'amorosa, oppure quando faccio una grande mangiata, oppure quando dormo, oppure quando mi metto in certe posizioni. Allora, annotate anche quando vi capita. Quando questo vi possiamo capita. Dare ai nostri ascoltatori. Può essere utile anche quanto dura, professor perfetto. Magrini? La terza domanda è quanto dura, e è importantissimo sapere se dura secondi, se dura minuti, se dura mezz'ore, ore addirittura, perché le aritmie, sia quelle veloci che quelle lente, possono essere identificate in modo sicuro solo registrando l'elettrocardiogramma. Allora, sapere se è una cosa velocissima o una cosa che dura ore, magari giornate intere, aiuta molto il medico poi a fare un programma per riuscire a registrare l'elettrocardiogramma. Quindi questa è un'indicazione importante, la durata. La durata. Anche, professore, come inizia e come passa? Perfetto, non solo come inizia e come passa, se inizia in modo brusco e passa in modo brusco, ma anche da quanto tempo e come va con il tempo. In parole povere, è la prima volta che uno sente questa cosa, oppure da 10 anni ogni tanto sento, oppure ho la sensazione che una volta lo sentivo una volta al mese e poi pian pianino è diventato una volta al giorno o più volte al giorno. Insomma, l'andamento nel tempo è una cosa, un'informazione estremamente utile per il medico che deve fare il programma. L'ultima domanda è se quando sento questo fastidio o troppo veloce o troppo lento, irregolare nei due casi, se avverto anche altre cose fastidiose. Per esempio, mi sento improvvisamente debolissimo, mi viene come da svenire, nausea, sudo freddo, oppure sento come un'oppressione davanti al torace o dolore, oppure faccio fatica a respirare. Quindi sono tutti sintomi che noi dobbiamo tenere presenti, annotare e riferire al medico. Ovviamente, senza correre. Allora, questo aiuta il medico, l'idea è che il medico viene molto aiutato dalla raccolta della storia del cuore, quindi il mio primo consiglio è sì, voi imparate a capire cosa sentite, quando lo sentite, quanto tempo dura, se ci sono altri disturbi assieme al battito, ma soprattutto identificato un medico a cui raccontare queste cose, il quale farà il programma per decidere se le candele sono da cambiare oppure vanno registrate o pulite o che cosa. Allora, vi abbiamo dato tutte le indicazioni riguardo al vostro ritmo, le avete sicuramente segnate, se batte troppo forte, se sta rallentando, quando avvertite questa sensazione, quanto dura, se si associa ad altri sintomi, descriveteceli all'800 24 0024. Ci occuperemo quindi prima del nostro battito della parte elettrica, poi andremo a parlare della parte meccanica, sempre insieme al professor Magrini, che aspetta le vostre telefonate e pronto a darvi delle indicazioni e dei consigli. Una mela al giorno. E adesso parliamo di un vecchio rimedio che può essere d'aiuto agli sportivi incidentati, magari quelli che ieri sono cadute sulle piste da sci, oppure a chi soffre di dolori articolari, che con il freddo di questi giorni si fanno sentire di più. Voglio parlarvi d'argilla. È un prodotto naturale, vanta numerose proprietà e quindi io vi consiglio di tenerne sempre a casa un po' a portata di mano, meglio d'impacco. Oggi parliamo dell'uso dell'argilla in caso di trauma e di dolori articolari. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Marco Temporin, medico specialista in igiene e medicina preventiva. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, dottor Temporin, andiamo ad argilla. È un toccasana perché sfiamma, purifica, rivitalizza. Un elisir, insomma. Beh, l'argilla è un elemento naturale ricco di proprietà utilissime per la nostra salute. L'argilla verde, soprattutto utilizzata come cataplasmi, ha notevoli effetti sfiammanti, decongestionanti, è un antiedemigeno, quindi riduce edemi e gonfiori, e utilissima proprio per le articolazioni che hanno subito dei traumi. Allora, quindi bisogna usare per i traumi quella verde, perché esiste anche un'argilla bianca, dottor Temporin? Sì, infatti, però per quanto riguarda i problemi articolari è utilissimo utilizzare l'argilla verde semplice, mentre per problemi estetici è più utile usare l'argilla verde o l'argilla bianca ventilata, che sono molto più sottili, ma in questi casi non è utile, anzi è molto più costosa, per cui non conviene dei nostri consumatori. Allora, stiamo sull'argilla verde. Come si fa un impacco? Come dobbiamo applicarla? Io ho parlato subito di impacco, ma penso che sia l'unico modo, no, per utilizzarla in caso di traumi cadute, per togliere il gonfiore, l'infiammazione. È giusto, dottor Temporin? È giustissimo, Nicoletta. L'impacco è il modo migliore per utilizzarla. L'impacco va fatto in questo modo. Viene impastata l'argilla con dell'acqua fresca, deve essere mescolata un pochettino in quanto l'acqua si assorbe molto lentamente. Bisogna aspettare che la consistenza dell'argilla sia un po' come un budino, per capirci. Sì. Dopodiché va applicata su carta da pacchi, una carta non stampata o una garza di cotone, e può essere messa nelle articolazioni. C'è da dire che soprattutto nelle articolazioni molto dolenti o soggette ad infiammazione, l'argilla come elemento catalitico può essere associata anche ad alcuni estratti, come per esempio l'arnica montana, le cui virtù sono soprattutto antinfiammatorie. Ecco, noi possiamo aggiungere nell'impacco un po' di gocce d'estratto d'arnica montana e potenziamo l'effetto antinfiammatorio. Magnifico, dottor Temporin. Quanto bisogna tenere questo impacco? Bisogna ad esempio farlo la sera? E andare a dormire con l'impacco? Sì, se, diciamo che se c'è un'infiammazione molto forte, l'impacco non va tenuto più di 45 minuti, un'ora, altrimenti l'argilla rischia di seccare troppo. Sì. In alternativa può essere tenuto 1-2 ore. Se vogliamo tenerlo durante la notte dobbiamo fare un impacco molto spesso per evitare che questa si secchi. Però diciamo 1-2 ore è l'orario migliore. Dottor Temporin, è vero che c'è anche un uso interno dell'argilla? Sì, l'argilla è un elemento ricchissimo di sali minerali, per cui può essere, soprattutto in questo caso l'argilla ventilata, può essere utilizzata anche per alcune problematiche, soprattutto in natura digestiva o altro, però magari ne parliamo in un'altra volta. Bravo, è quello che volevo chiedere, lasciamo questo tema che affronteremo con dovizia di particolari di indicazione in un nostro prossimo appuntamento. Per ora ricapitoliamo, l'argilla verde in caso di traumi, gonfiori, dolori articolari. Un impacco che teniamo circa 45 minuti, vero dottore? Esatto, posso aggiungere una piccola cosa? Deve. In caso di insufficienza venosa lieve, quindi gonfiore alle gambe o cosa, l'argilla può essere messa come impacco anche sulle gambe e sui piedi, dà sollievo e riduce gli edemi, soprattutto alle signore. Magnifico, dottor Temporin, e noi ci sentiamo prestissimo. Buona giornata. Arrivederci, Nicoletta. Pronto soccorso. Torniamo a parlare del nostro cuore, macchina cuore. Stiamo facendo un controllo per il momento della parte elettrica e quindi partiamo e parliamo di ritmo insieme al professor Magrini. Professor Magrini, proviamo, iniziamo subito a sentire un po' il ritmo del nostro cuore, il battito. Dal polso? Il polso è l'effetto meccanico della contrazione del cuore, nel senso che il cuore spingendo fuori il sangue genera pressione e noi sentiamo l'effetto del sangue che passa nelle arterie del polso, sentiamo che l'arteria diventa un po' più tesa e poi un po' meno tesa, un po' più tesa, un po' meno tesa. È un sistema molto semplice che penso tutti quanti possano imparare, sono sicuro che tutti hanno visto i film in cui si sente il battito del cuore sul collo. Sì. Sul collo ci sono delle arterie molto grosse che si chiamano carotidi. Eccola qua, l'ho beccata subito, professor Magrini. Certe volte è più facile sentirla sul collo anziché sul polso. Bisogna stare attenti a non schiacciare troppo il collo perché uno non lo sente, eccetera, perché sì, no, in quella zona ci sono dei recettori che fanno scattare dei riflessi che possono essere fastidiosi, non lo so, lei sa benissimo, anche se i pugili per esempio non possono darsi pugni sul collo perché un pugno sul collo fa svenire, che c'è un riflesso che fa arrestare i battiti, rallentare fortissimamente i battiti cardiaci, quindi bisogna imparare a farlo in modo delicato. Si può anche mettere una mano sul torace e sentire il battito sul torace, a volte è molto facile sentire il proprio battito sull'addome, soprattutto le persone un po' magre o senza tanta pancia. Se stanno a letto con un libro sulla pancia hanno la sensazione che il libro balli perché si trasmette un pochettino il battito e uno si accorge che c'è una trasmissione magari irregolare. Certo. Sì. Quindi non è difficile imparare a sentire quanti battiti, è un pochino più difficile con le proprie dita sentire se sono regolari o irregolari. Quello che invece il proprietario del cuore sente meglio di tutti è quando c'è una capriola, uno sfarfallio, un tuffo, sì, un rallentamento oppure un'accelerata improvvisa, questo viene avvertito proprio come un fastidio che viene descritto appunto a questo modo. Ecco. Certo, anche le emozioni, dicevamo, professor Magrini, fanno, no, cambiare, possono far cambiare, sì, il ritmo del nostro cuore. Noi abbiamo in linea con noi una grande scrittrice, Antonella Boralevi. Ciao Antonella. Buongiorno. Che raccogli le emozioni delle tue lettrici ogni settimana, no? Che si agitano. Noi abbiamo detto che non è solamente il cuore la sede delle nostre emozioni, ma ecco, a noi piace vederle nascere e crescere lì. Antonella, tu ti occupi del tuo cuore, pensi di conoscerlo bene, sono contenta che ci sia tu proprio, ti ho chiesto di intervenire, proprio perché noi donne insomma lo trascuriamo un po' il nostro cuore, allora non ti dico non voglio farti una sorta di test, ma insomma voglio capire un po' come ti occupi del tuo cuore, se conosci i suoi amici, ti metto a disposizione anche il professor Magrini, qualora tu volessi chiedergli magari qualche cosa. Allora, come sta il tuo cuore? Tu che ti occupi del cuore e non solo degli altri. In generale sono completamente d'accordo con te. Io stessa ho scoperto che le donne si occupano poco del loro cuore una decina d'anni fa in America, in una situazione come è capitato per le mani un giornale scientifico, la cui copertina era proprio che le donne, diciamo così, si ammalano di cuore ormai uguale agli uomini. Quindi la cosa da dire è che sì, un tempo l'infarto non ci veniva in generale perché facevamo una vita molto più tranquilla, ma siccome facciamo la vita degli uomini dobbiamo curare il nostro cuore. La cosa più secondo me interessante è che i sintomi della malattia del cuore nelle donne, qui avete voi molta più scienza di me, ma quello che ho capito io è che sono molto strani e insoliti, sono diversi rispetto a quelli dell'uomo, cioè per esempio il mal di stomaco piuttosto che non so, una sensazione di costringimento del petto. Io ti devo dire che mi sono spaventata una volta, sì, su questo, Poi in realtà era una cosa di troppa fatica, troppo stress, diciamo era una giornata in cui faceva molto caldo e avevo affrontato stress appunto emotivi e fisici, perché mi ricordo avevo portato un'enorme valigia su e giù per le scale delle stazioni, perché nelle stazioni, come sai, quelle piccole sì, non esistono ascensori. E allora sì, mi sono presa una paura, sono andata e lì ho cominciato ad avere un rapporto con un bravissimo cardiologo che adesso mi fate venire in mente, dovrò rivedere perché è vedi, passato qualche anno. Professor Magrini, che cosa possiamo tirare fuori da quello che ci ha raccontato Antonella Boralevi come messaggio per le nostre ascoltatrici? Prima la notizia buona, poi quella meno buona. Allora, nella fase in cui le donne sono fertili, il cuore delle donne è un pochino più protetto rispetto a quello degli uomini, nel senso che forse ha dei meccanismi di rigenerazione più veloce. Voi sapete che sì, da un po' di anni si è capito che quelle cellule che vengono chiamate staminali sono deputate alla riparazione in tempo reale dei danni che si creano, non so, uno si fuma una sigaretta, si rompe un endotelio, le sue staminali velocemente lo aggiustano. Nelle donne, nella fase fertile della vita, questi meccanismi funzionano particolarmente bene. Bene. Questo non toglie che soprattutto la gravidanza sia un'occasione per fare un piccolo check al cuore delle donne. Perché ecco, quindi questa è un'indicazione per le mamme in attesa. Professore, intanto io so che Antonella Boralevi deve scappare e volevo salutarla perché ci ha dato degli spunti interessanti e ringraziarla. Soprattutto no, sto già scappando e volevo chiudere con questa riflessione. Sono in macchina, sono sotto la neve di Milano. Sì. E pensavo anche ascoltandovi che probabilmente la chiave della nostra vita di donne potrebbe essere quella, siccome noi di solito viviamo nella fretta, questo forse il professore non lo sa, ma le donne vivono nella fretta molto più degli uomini, cioè quando dicono per esempio vado a dormire, in realtà vanno a dormire ma prima preparano la cena, va bene. Allora io dico, perché non cominciamo a vivere la nostra vita, non sempre, ma ogni tanto con la lentezza della neve che cade? Beh, ecco, ve la buttiamo lì. Grazie Antonella, buona giornata. Buona giornata. Cuore batti cuore, riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Magrini. Parlavamo, abbiamo dato una notizia positiva per le donne in ascolto, siamo più protette nell'età fertile. Professor Magrini, c'era anche una notizia non negativa, ma insomma, da conoscere. La fine dell'età fertile e l'inizio della menopausa comporta che la centralina elettrica diventa un pochino più instabile, quindi è molto frequente che uno abbia una signora abbia la sensazione del cuore che batte in modo irregolare, che fa dei tuffi, eccetera. Quindi si crea una certa instabilità nella liberazione della scintilla della centralina, che viene avvertita in modo fastidioso. Però penso che questo faccia parte un pochino, come dire, della storia naturale del cuore. In questi ultimi anni si è scoperto che possono essere molto attenuati i disturbi cardiovascolari della menopausa con i trattamenti sostitutivi, ma questo è ovviamente un problema complicato che va discusso con il proprio ginecologo, eccetera, e anche con il cardiologo. E anche col cardiologo, perché è meglio sempre avere un cardiologo per amico, perché è l'amico del nostro cuore il cardiologo. Beh, è utile avere un cardiologo che conosce la storia del cuore, perché valutare l'effetto tempo è utilissimo per prendere decisioni, perché poi la cosa utile che forse potremmo cercare di dire a chi ci ascolta è: va bene, io sento queste cose, ho imparato a analizzare senza esagerare le mie sensazioni, e adesso cosa faccio? La risposta è: vanno segnalate queste cose al medico, il quale medico ha un obiettivo molto chiaro: capire se questi difetti della centralina, quindi della candela che dà la scintilla alla contrazione del cuore, dipendono da una instabilità della centralina, che quindi non è particolarmente impegnativa, oppure se dipendono dalla parte meccanica del cuore, cioè c'è un difetto nel cuore, perché il cuore può essere bersagliato da disturbi dei polmoni, delle ghiandole endocrine, la tiroide in primis, dello stomaco, anche del cervello, non solo, ma può essere disturbato da difetti delle sue strutture, non so, una valvola che non si apre bene, non si chiude bene, le coronarie che non portano abbastanza sangue anche alla centralina, quindi la centralina dà dei segnali che questo lo può capire solo il medico, per cui noi riferiamo tutto al medico e cercherà, lui è in grado di dirci se è un problema della centralina e non deve preoccuparci, sì, o se invece c'è qualcosa d'altro a monte. Questo è assolutamente un'indicazione vero che possiamo dare. Adesso sentiamo come batte il cuore di Lidia, che ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Lidia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore, grazie per avermi richiamata. Come sta il suo cuoricino, Lidia? Appunto, me lo chiedo anch'io come sta, perché dall'età più o meno di 30 anni io soffro di estrasistole, accertato, appurato, tutto quanto, e sono in menopausa, io ho 53 anni adesso, sì? Sono in menopausa dall'età di 40 anni, vi lascio immaginare quanti disastri. E queste estrasistole sono peggiorate ovviamente, e non soltanto sotto sforzo, semplicemente per esempio quando mi asciugo i capelli, che alzo le braccia o quando ho delle emozioni ovviamente, ma anche così, come per esempio oggi, ieri, viene a ondate, cioè nel bel mezzo della mia vita a un certo punto mi arrivano queste estrasistole e per una settimana, un mese, tre mesi, poi spariscono, almeno non le sento più, non so se certo spariscono, ho messo l'holter e sono andata da due cardiologi, uno mi ha detto subito, lei deve prendermi immediatamente i beta bloccanti, mi è sembrato un pochino, questo mi ha spaventato un sì po'. L'altro invece l'ha rassicurata? No, l'altro mi ha gentilmente quasi accompagnata fuori dicendomi, beh, non capisco perché lei sia venuta, dico ma beh, mi sembrava magari, che... Sentiamo il professor Magrini, ecco, come si sarebbe comportato con Lidia, professor Magrini. Allora, no signora, non si arrabbi se anche tra i medici ci sono opinioni diverse. Direi che l'extrasistole è un battito in più, quindi è la cosa più frequente. Non abbiamo idea di quante persone hanno extrasistole e non lo sanno o se ne accorgono poco, eccetera. Per capire se è un'extrasistole, tra virgolette, pericolosa oppure sì non pericolosa, bisogna registrare l'elettrocardiogramma mentre uno l'avverte. Quindi ho capito che la signora ha già fatto un esame Holter oppure ha avuto, se vuole, la fortuna di sentire un battito irregolare mentre veniva registrato l'elettrocardiogramma o sul monitor o sulla carta. Identificato con l'elettrocardiogramma il battito anormale, il cardiologo capisce se è brutto oppure bello. Bello. Se è brutto bisogna capire se dipende da un difetto del cuore oppure se è la centralina che ha dei suoi difetti che non le sto a dire, e quindi si fa partire un programma di protezione del cuore. Se l'extrasistole non è pericolosa, ci sono due condizioni: viene vissuta in modo molto fastidioso, per cui avere la sensazione di insicurezza che dà un battito anomalo cardiaco finisce col creare disturbo, fastidio, uno non è contento, dice no, non posso andare a giocare a pallone perché o non posso fare quella. Allora, insomma, diventa invalidante. Se ecco viene pur non essendo pericolosa, se viene vissuta come un fastidio, io penso che sia assolutamente appropriato prendere delle medicine per mandarla via o ridurla al minimo. Quindi la mia risposta è: se le extrasistole le danno molta noia al punto che non può asciugarsi i capelli senza avere la sensazione che il cuore faccia i capricci, se questo viene vissuto con non curanza e il suo cuore è bello, non farei niente. Se viceversa le dà fastidio, si può fare, però prima di decidere una cosa del genere bisogna essere sicuri che, non so, il suo ecocardiogramma che fa vedere le strutture del cuore è normale, sì, i suoi polmoni sono normali, la funzione della tiroide è normale, bisogna, la quindi quantità di potassio che c'è nel sangue è normale. In parole povere, bisogna che il medico faccia scattare una serie di accertamenti che rispondono a questa domanda: è un'instabilità primitiva o dipende dal fatto che il cuore è danneggiato da qualche altro cosa? Lidia è ancora in linea con noi? Spero, io penso che Lidia sia comunque stata rassicurata dal professor Magrini, e andrei a Bergamo dove ci aspetta Stefano. Buongiorno Stefano. Buongiorno Nicoletta. Stefano, buongiorno. Il suo cuoricino come va? No, Diciamo che va molto bene, tranne che da un paio di mesi a questa parte sono insorti dei disturbi che somigliano a quelli della signora Lidia. Sì, nel senso che fa un po'... Nel senso che tutto un tratto mi sono sentito dei disturbi strani, dei movimenti strani del cuore, e mi sono ascoltato praticamente e ho visto che ogni tanto mancava un battito, saltava un battito. Io conduco una vita normalissima, pratico sport abitualmente, ma non ho avuto mai nessun tipo di disturbo e lo continuo a praticare. Il medico di base mi ha detto di non preoccuparmi, di non pensarci, se le dessero fastidio in maniera appunto invalidante, come ha detto lei prima, al limite si controlla in maniera più accurata, altrimenti può continuare a fare una vita assolutamente normale. Chiediamo conferma al professor Magrini, sì, se magari ha delle indicazioni, dei suggerimenti. Allora, io penso che il suggerimento che le ha dato il suo medico, che probabilmente ha visto le sue extrasistoli o i suoi battiti regolari sull'elettrocardiogramma, perché il primo punto è: bisogna registrare l'elettrocardiogramma quando c'è il battito. Questo permette ai medici di assumere le due linee. Non facciamo niente e lei li sopporti o faccia finta di non sentirli, oppure facciamo qualche cosa. Allora, se sono state viste come extrasistoli non cattive, non pericolose, perché ci sono poi dei criteri elettrocardiografici, sono assolutamente d'accordo con lui. La seconda cosa che vorrei dire è che le medicine che si usano per proteggere il cuore contro questi difetti della centralina sono neanche tante, sono una decina, si chiamano farmaci antiaritmici e vanno tutti però presi con l'accordo del cardiologo. Penso che si tratti di farmaci importanti e tutto sommato è bene sentire il parere del cardiologo, oltre che del proprio medico di base, per decidere se fare un trattamento antiaritmico cronico, oppure a volte si può anche prenderle solo quando ce n'è bisogno, cioè uno se le tiene in tasca, nella valigia, quando viaggia, in macchina, eccetera, ma questo è un programma che si fa con il cardiologo che ha visto l'extrasistole, dice: ah, benissimo, questa qui sono sicuro che va via se lei mette in bocca questa pilloletta quando li sente, e così può giocare a tennis tranquillamente senza avere la preoccupazione, eccetera, che diciamo del cuore ballerino. Adesso noi, tra poco, subito dopo il traffico che andiamo a sentire proprio fra pochi secondi, ci occuperemo anche però, professor Magrini, della parte meccanica. Quindi di che cosa parleremo? Di coronarie e di valvole? Beh, fondamentalmente coronarie, valvole, pressione alta e vari disturbi magari di altri distretti che possono bersagliare il cuore. Il cuore è un organo bersagliato da molte cose. Se la prendono tutti con lui. Un po'. Ecco, un po'. Ad esempio arrivano molti messaggi di ascoltatori come Antonella che ci scrive: le caviglie gonfie, potrebbe essere il cuore. Carlo ci scrive: faccio fatica a camminare con passo spedito e mi viene un po' di tosse, a chi dare la colpa? Da quando ho avuto l'influenza mi viene l'affanno senza ragione. Ansia o cuore o mancanza di esercizio? Professor Magrini, eccoci. Allora, ho le caviglie gonfie, potrebbe essere il cuore? Potrebbe essere il cuore, però potrebbe essere un qualche cosa di molto meno impegnativo. Allora, magari le scarpe strette. Ecco, allora anche qui una serie di domandine, solo la sera o anche la mattina, molto legato alla posizione, tanto in piedi, se le tengo in su, passa. Va via, oltre a essere gonfie diventano blu o marroncine o bianche. Insomma, dobbiamo essere pronti a fornire tanti dettagli. Sulle gambe gonfie ci sarebbero 10 domande, ma forse oggi non ce la facciamo. Però facciamo una bella puntata, professor Magrini, sulle gambe gonfie. Va bene. Allora, bene, la segniamo già con Laura Vanossi in redazione, così abbiamo già un tema da affrontare insieme ai nostri ascoltatori. E chissà se lo sentirà anche Silvana, che ci chiama da Roma adesso all'800-24-0024. Silvana. Pronto? Buongiorno Silvana. Faremo una puntata sulle gambe gonfie. Al momento invece qual è la sua domanda? Era sempre rivolta al discorso cuore. Sì. Volevo sapere in particolare, avendo un battito regolare, magari qualche volta, avendo un senso di affaticamento, eccetera, il senso di oppressione. Sì. Ecco, qualche volta mi qualche capita. Qualche volta le capita. Il senso di oppressione che ti dà diciamo un affaticamento tale da mettersi al riposo e risolverlo, ecco, solo con il riposo. E allora spesso non so se dobbiamo, diciamo, come riuscire a distinguere il discorso eventualmente dell'ansia, o del cuore, con il discorso dell'oppressione al petto risolto a volte con un po' di riposo. O con una pilloletta antistress o diciamo antidepressivo a volte. Grazie, ecco, Silvana. Professor Magrini, Silvana ci dà lo spunto per un'altra puntata, perché a distinguere l'oppressione, no, le cause dell'oppressione al cuore, ma un consiglio generale. Quando c'è il dubbio, allora il mio consiglio generale: non si può vivere con il dubbio che il proprio cuore non funzioni bene. Quindi io preferirei fare un elettrocardiogramma da sforzo in più che uno in meno. Allora, l'elettrocardiogramma da sforzo permette di vedere in tempo reale l'attività della sua centralina mentre lei fa uno sforzo e magari compare questa sensazione di oppressione. Smette lo sforzo, la sensazione scompare e si vede se l'elettrocardiogramma si è modificato. E quindi il mio consiglio è: non viva nell'ansia, non stare con questo peso sul cuore. Faccia un sforzo, e i medici onestamente sono capaci di dire cuore è bello oppure il cuore è brutto. Professor Magrini, abbiamo detto coronarie, abbiamo parlato anche di valvole. Per affrontare rapidamente, poi ci torneremo nel dettaglio, questa parte meccanica, le coronarie sappiamo che si possono ostruire, non sempre però, no, noi possiamo saperlo in tempo reale, spesso ce ne accorgiamo quando è un po' tardi. Ci sono dei sintomi, dei segnali, un po' come ha dato come indicazione alla nostra ascoltatrice che sentiva questo senso di oppressione, lei ha suggerito: faccio un elettrocardiogramma da sforzo. Le coronarie hanno un sintomo? Allora, guardi, le coronarie sono la parte più difficile, anche per noi medici a volte non è facile capire se il batticuore, l'irregolarità del battito oppure il rallentamento dipende o no dalle coronarie. La prima cosa da fare è valutare sempre con la registrazione in continua dell'elettrocardiogramma se durante i difetti della centralina ci sono anche difetti della ossigenazione del sangue, o meglio del cuore, perché l'elettrocardiogramma, che tutti quanti avranno visto, sa, quei disegnini che registrano un battito del cuore, quindi la parte, hanno varie ondine. Una ci dice se la candela stimola, dà la scintilla in modo regolare con la velocità giusta. Un'altra ondina, che si chiama onda T, ma questo non ve lo voglio dire, sennò vi annoiate, ci fa vedere se il cuore viene ossigenato bene. Allora, molte volte l'elettrocardiogramma è la tecnica più semplice, è più anche meno costosa, più elastica, eccetera, per capire se le coronarie funzionano bene o no. Se con l'elettrocardiogramma durante sforzo, registrato di notte, di giorno, durante i disturbi, le cose non si chiariscono, si possono fare altri esami più complessi che vanno mirati però caso per caso. Senta, professore, invece per quanto riguarda le valvole, lo sappiamo, ne abbiamo quattro, sono costantemente impegnate, si devono aprire e chiudere resistendo alla pressione sanguigna, quindi fanno un lavoro importantissimo, sincronizzato. Abbiamo noi, senza fare degli esami, qualche sintomo che ci può far pensare a questa parte del nostro cuore? Guardi, se le valvole non funzionano bene si può sentire battiti irregolari, sentire affanno per sforzi piccoli, sentire peso o pressione, come diceva la signora, e avere anche, non so, le gambe gonfie, magari diventare un po' blu quando si fa degli sforzi, eccetera. Allora, la cosa prima da fare è raccontare tutto al proprio medico, il quale con il fonendoscopio, che è quell'arnesino che si permette di ascoltare il rumore che fa il cuore quando batte, è facile capire se le valvole funzionano bene o no. Se non funzionano bene, il cuore fa un rumore anormale che si chiama soffio. Non sempre il soffio dipende, è una vibrazione del sangue, come quando uno apre un rubinetto e il flusso dell'acqua è veloce e crea turbolenza e fa rumore. non sempre i soffi, quindi le turbolenze, dipendono da un difetto delle valvole, possono dipendere anche semplicemente dalla velocità con cui scorre il sangue, non c'è da preoccuparsi a priori, certo, per un soffio. Però per scoprire se la valvola funziona o no, prima cosa, sentire che rumore, e questo lo deve fare il medico. Lo deve fare il medico. Noi invece possiamo lasciarci con alcuni consigli di cuore che abbiamo raccolto in una scheda, li sentiamo prima di salutare il professor Magrini. Intanto, professor Magrini, li sentiamo insieme e poi ci salutiamo per bene. Smetti di fumare se non vuoi mandare in fumo la tua salute. Segui una dieta varia ed equilibrata. La dieta mediterranea è perfetta. Riposati. Chi dorme non piglia pesci, ma chi riposa bene, specie di notte, rispetta il benessere del suo cuore. Muoviti. È sufficiente mezz'ora di esercizio fisico 3 volte la settimana. Non ingrassare. I chili di troppo costringono il cuore a un superlavoro inutile e dannoso. Tieni il girovita snello. Le misure ideali sono meno di 80 cm se sei donna e meno di 94 se sei uomo. Ritagliati i tuoi spazi e prenditi cura di te. Il tuo cuore non ama gli stress negativi. Professor Magrini, possiamo salutarci con questi consigli di cuore? Mi sembrano perfetti. Posso aggiungerne uno velocissimo? Magnifico, mi dica. Trovati un medico che conosca la storia del tuo cuore e, se hai più di 45 anni, una volta all'anno vai da lui, anche se stai benone, nel senso di cercare di giocare d'anticipo. Grazie, professor. Prego. Magrini, faremo tesoro di questa indicazione. Intanto, buona giornata di cuore anche a lei. Grazie mille a tutti. E noi vogliamo rilassarci, lo facciamo oggi proprio tra le regole del nostro cuore, c'era appunto quella di rilassarci un po'. In linea con noi abbiamo il professor Fulvio Palombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, alla fine della giornata, spesso, specie se questa giornata è lunedì, sì, ci sentiamo sfiniti. Noi abbiamo un minuto, prima di salutare i nostri ascoltatori, per dare a loro un consiglio che possono seguire stasera tornando a casa per sollevarsi di tutte quelle tensioni, ingrippamenti che ci sono e preoccupazioni per dare Allora, noi siamo pronti, abbiamo un minuto da adesso. Allora, un minuto, seduti con calma davanti a uno specchio, si fanno dei bei respiri e poi si fanno con le 4 dita della mano sinistra delle forti pressioni sotto le clavicole. Sapete, la clavicola è quell'osso che va dalla spalla al collo, là sotto è forti pressioni, ripetendo le pressioni 5-6 volte con tutte le 4 dita della mano sinistra. Sì. 1, 2, 3 e 4. E poi si ripete con la mano destra sotto la clavicola sinistra. Sempre incrociando. Sempre incrociando, in modo che si è facile, si può fare facilmente. Spesso l'ansia si accompagna a delle situazioni somatiche, muscolari, che sono davanti al nostro corpo, attorno allo sterno. Quindi queste pressioni forti e ripetute allentano questa tensione. Quindi altri questo, sì, mi dica professore, abbiamo un secondo. Altri punti molto importanti all'interno del braccio, con la mano sinistra, questa volta con il pollice, si fanno delle pressioni piuttosto intense lungo la parte interna del braccio destro. Siamo tutti qua ci stiamo già preparando. Sì, proviamo quindi tutti insieme, da sotto l'ascella, quasi a partenza dell'ascella, 4-5 punti forti verso il gomito. 1, 2, 3 e 4. Si ripete 3-4 volte, prima sul braccio sinistro, braccio destro e poi sul braccio sinistro. Proveremo. Allora, questo è l'esercizio. Grandi respirazioni, respirate, che vi aiuta a alleviare l'ansia. Professor Palombini, grazie, penseremo a lei stasera, grazie, tornando a casa davanti allo specchio. Invece noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Intanto voi esercitatevi.